5. Finalmente il suo sogno si avverò. Una mattina di ottobre, egli si alzò più presto del solito e zia Tatana lo lavò, lo pettinò, gli fece indossare il vestitino nuovo, quello di fustagno duro come la pelle del diavolo. Anania grande, che divorava già la sua colazione, un arrosto di viscere di pecora, quando vide il fanciullo pronto per recarsi alla scuola, rise di gioia e gli disse, minacciandolo con un dito: Oh! Se non fai da bravo, ti mando da maestro pane a fare le casse da morto, eh? Bustianeddu venne a prendere Anania e lo accompagnò con una certa aria sprezzante di protezione. La mattina era splendida. Nell'aria limpida passava un dolce odore di mosto, di caffè, di vinaccia in fermentazione. Le galline e i galli cantavano per le strade, i contadini si recavano in campagna coi lunghi carri coperti di pampini, preceduti dai cani allegri e frementi. Anania si sentiva felice, benché il compagno parlasse male della scuola e dei maestri. Il tuo maestro, Anani, pare un gallo, col berretto rosso e la voce rauca. Io l'ho dovuto sopportare per un anno che il diavolo gli roda il calcagno. Le scuole erano all'altra estremità di Nuoro, in un convento circondato da orti melanconici. La classe di Anania, al pian terreno, guardava sulla strada solitaria. Molta polvere copriva le pareti. La cattedra del maestro sembrava rosicchiata dai topi. Macchie d'inchiostro, incisioni e graffiti, nomi che parevano geroglifici, decoravano i banchi. Anania provò una vera delusione nel vedere comparire, invece del maestro descrittogli da Bustianeddu, una maestra vestita in costume, piccola e pallida, con due baffetti neri sul labbro superiore come li aveva anche zia Tatana. 40 bambini animavano la classe. Anania era il più grande di tutti e forse perciò la piccola maestra, che aveva anche due terribili occhi neri, si rivolgeva a lui di preferenza, chiamandolo col solo cognome e parlandogli un po' in dialetto sardo e un po' in lingua italiana. Questa attenzione ostinata non gli piaceva, ma gli giovò. Dopo 3 sole ore di scuola, egli sapeva già leggere e scrivere due vocali. È vero che una era la vocale O, ma ciò non toglieva importanza al suo merito. Verso le 11, però, egli era già stufo della scuola e della maestra, nonché del vestito nuovo che lo impacciava assai. Sbadigliava e pensava al cortiletto, al sambuco, al cestino dei fichi d'India, ove ogni tanto egli usava cacciare le manine agguerrite contro le spine. Non veniva mai l'ora di andar via, dunque. Molti compagni piangevano e la maestra si sfiatava invano, predicando l'amor della scuola e la tranquillità. Finalmente l'uscio si aprì, comparve e disparve come un lampo la figura sbarbata del bidello, anche lui vestito in costume, e risuonò la sua voce. E ora? I bambini si precipitarono verso la porta, spingendosi, gridando, ed Anania rimase ultimo accanto alla maestra, che lo accarezzò sulla testa con la piccola mano scarna. Bravo, gli disse, sei il figlio di Anania Tonzu? Sì, signora. Bravo, tanti saluti a tua madre. Egli naturalmente capì che questi saluti erano per zia Tatana e subito la maestra, che lo lasciò per mischiarsi alla folla dei bambini schiamazzanti, gli diventò cara. Ma che modo è questo? Ella gridava agli scolaretti, afferrandoli e fermandoli. A due in riga! A due in riga, essi percorsero un buon tratto di strada. Dopo furono lasciati liberi e si dispersero per lo spiazzo, come uccellini scappati dalla rete, correndo e girando. Anche dalle altre classi uscivano in ordine gli alunni, via via più adulti e più seri. Bustianeddu piombò sopra Anania, battendogli i quaderni sul capo e lo trasse con sé. Ti piace dunque? Sì, rispose Anania, ma ho fame, non finiva mai. Oh, che credevi fosse un minuto? Aspetta e vedrai, ti calerà il moccio e la bava, ti verrà la fame e la sete. Oh, guarda, Margherita Carboni. La bimba con le calze violette, la sciarpa rossa e i polsini di lana verde s'avanzava fra un nugolo di scolarette, uscite dalla scuola dopo i maschi, e passò davanti ai due amici senza degnarsi di guardarli. Dopo il gruppo che la circondava, venivano altri gruppi di ragazzette, povere e ricche, paesane e borghesi, alcune già alte e civettuole. I ragazzi di quarta e di quinta si fermavano a guardarle e ridevano fra loro. Fanno all'amore, disse Bustianeddu, se i maestri li vedono. Anania non rispose, convinto che gli scolari e le scolare di quarta e quinta fossero abbastanza grandi per fare all'amore. Si scambiano anche delle lettere, riprese Bustianeddu con grande importanza. Anche noi, quando saremo in quarta, faremo all'amore, disse Anania con semplicità. Che cosa fai tu, Mammaluco? Impara prima a pulirti il naso. E si presero per mano e si misero a correre. Dopo quel giorno altri e altri ne passarono. Tornò l'inverno, venne riaperto il molino, ricominciarono le scene dell'anno avanti. Anania era il primo della classe e fin da allora tutti dissero che egli sarebbe diventato medico o avvocato o magari giudice. Tutti sapevano che il signor Carboni aveva promesso di assisterlo negli studi e anche lui lo sapeva, ma ancora non riusciva a farsi una giusta idea del valore di questa promessa. Solo più tardi cominciò in lui la gratitudine. Per allora provava una soggezione invincibile e nello stesso tempo una vera felicità quando vedeva la florida ed affabile persona del padrino. Spesso veniva invitato a pranzo dal signor Carboni, ma strano invito, egli doveva mangiare in cucina con le serve ed i gatti, del che non si lamentava perché gli pareva che a tavola coi signori non avrebbe potuto aprir bocca per la soggezione e per la gioia. Dopo il pranzo, Margherita usciva in cucina e si intratteneva con lui, per lo più chiedendogli informazioni sulle persone che frequentavano il molino. Poi lo conduceva di qua e di là, nel cortile, nei granai, in cantina, compiacendosi quando egli esclamava col fare di Bustianeddu: «Eh, diavolo, quanta roba avete!» Ma non si abbassava mai a giocare con lui. Gli anni passarono. Dopo la maestrina dai baffi venne la volta del maestro che pareva un gallo. Poi, d'un vecchio maestro tabaccone che, additando l'isola di Spitzberg, diceva piangendo: «Qui fu imprigionato Silvio Pellico». Poi, di un piccolo maestro dalla testa rotonda, pallido, molto allegro, che si suicidò. Tutti gli scolari rimasero morbosamente impressionati dal fatto doloroso. Per molto tempo non pensarono e non parlarono d'altro. Ad Anania, che non sapeva persuadersi come il maestro si fosse potuto uccidere, mentre era un uomo allegro, dichiarò in piena scuola che era pronto a suicidarsi alla prima occasione. Fortunatamente, l'occasione mancava. Egli in quel tempo non aveva dispiaceri, era sano, amato dai suoi, sempre primo nella scuola. Intorno a lui la vita si svolgeva sempre uguale, con le stesse figure e i meschini avvenimenti. Un giorno simile all'altro, un anno simile all'altro, come la stoffa a disegni uguali che il mercante svolge dall'interminabile pezza. L'inverno convenivano nel frantoio sempre le stesse persone, gli stessi tipi, e si rinnovavano le stesse scene. In primavera il sambuco fioriva nel cortiletto, le mosche e le api ronzavano nell'aria luminosa, nelle strade e nelle case si delineavano sempre le stesse figure. Zio Barchitta il pazzo, con gli occhi azzurri fissi e la barba e i capelli lunghi, simile ad un vecchio Gesù mendicante, continuava nelle sue innocue stravaganze. Maestro Pane segava le assi e parlava fra sé a voce alta. Efes passava barcollando, Nanna lo seguiva, i bambini laceri giocavano coi cani, i gatti, le galline, i porcetti, le donnicciole si bisticciavano. I giovanotti cantavano cori melanconici nelle notti serene illuminate dalla luna. Il lamento di Rebecca vibrava nell'aria simile al canto del cuculo, nella tristezza di un paesaggio desolato. Come appare il sole in uno squarcio improvviso di cielo velato, qualche volta appariva nel misero vicinato ove Anania viveva la florida figura del signor Carboni. Le donne uscivano sulla porta per salutarlo e sorridergli. Gli uomini disoccupati, sdraiati indolentemente al sole, balzavano in piedi arrossendo. I bambini gli correvano dietro, baciandogli le mani che gli teneva bonariamente intrecciate dietro la schiena. Durante un rigido inverno di carestia, egli provvide di polenta ed olio tutto il vicinato. Tutti ricorrevano a lui per piccoli prestiti che non venivano mai restituiti. Qua e là, per tutte le stradette dove il vento portava foglie, paglia e immondezze, egli incontrava bambini e ragazzi che lo chiamavano padrino e donne e uomini che lo chiamavano compare. Ormai non ricordava più il numero dei suoi figliocci e zio Pera affermava malignamente che non poche persone si fingevano compari e comari del padrone per carpigli denari. E poi molti sperano che egli aiuti negli studi i loro figliuoli, disse un giorno il vecchio ortolano seduto davanti al forno del frantoio col randello sulle ginocchia. Qualcuno ne aiuterà bene, osservò il mugnaio con evidente compiacenza, guardando Anania che stava affacciato alla finestra. Non più d'uno. Il padrone è un po' vano, ma non si rovina poi. Che dite voi, vecchia cavalletta? Esclamò il mugnaio, adirandosi. Come il diavolo, voi più invecchiate, più diventate maligno? Andiamo, riprese il vecchio, raschiando e tossendo. E le cose forse non si sanno? Ebbene, solo i cani riescono a nascondere le loro immondezze. Perché il padrone non fa studiare i suoi bastardi? Anania, che guardava alla finestra sotto la quale odorava un mucchio di sanse fumanti, sentì un fremito di dolore come se qualcuno l'avesse percosso. Il mugnaio raschiò e tossì a sua volta e avrebbe voluto che Anania non udisse le parole sacrileghe dell'ortolano, ma anche lui non poté contenersi e cominciò ad inveire contro zio Pera. Schifoso, maligno, topo morto, che modo di parlare è il vostro? E che le cose non si sanno? Ripeté il vecchio prendendo il randello in mano come per difendersi da un possibile attacco. Il bambino che lavora nella bottega di Francisco Carchide è forse figlio di Gesù Cristo? Ebbene, perché il padrone non fa studiare quel bambino che è suo? È il figlio di un prete, disse il mugnaio abbassando la voce. Non è vero, è del padrone, osservalo, è tale quale Margherita. Ecco, rispose il mugnaio completamente disarmato. Quel bambino è cattivo come il diavolo, non si può far studiare. Si può combattere contro le pietre? Ah, bene, mormorò zio Pera, ripreso da un attacco di tosse. Anania stette ancora alla finestra, sputando sul mucchio di sanse, oppresso da una misteriosa tristezza. Egli conosceva il ragazzetto che lavorava presso il Carchide e sapeva che era discolo, ma non più di Bustianeddu ed altri ragazzi che frequentavano la scuola. Perché il signor Carboni non lo prendeva in casa sua se era figlio suo, come lui era stato preso dal mugnaio? Poi pensò, a madre, quel ragazzetto? Ah, la madre, la madre! A misura che gli cresceva, che la sua mente aprivasi e le sue idee, le sue percezioni prendevano forma, il pensiero della madre delineavasi sempre più chiaro nel crepuscolo della sua coscienza nascente. In quel tempo egli frequentava la quarta elementare, tra fanciulli di ogni condizione e di ogni carattere, e cominciava ad avere sentore della scienza del bene e del male. Si vergognava già coscientemente se qualcuno alludeva a sua madre e ricordava di essersene sempre vergognato per istinto, e nello stesso tempo provava un desiderio struggente di sapere ove ella era, di rivederla, di rimproverarle la sua fuga. Già la terra ignota, lontana e misteriosa, ove ella s'era rifugiata, prendeva i suoi occhi linee e parvenze decise, come la terra che tra i vapori dell'alba s'avvicina al naviglio viaggiante. Egli studiava con piacere la geografia e sapeva già perfettamente l'itinerario da percorrere per arrivare dall'isola a quel continente dove si nascondeva sua madre. E come un tempo, nel villaggio dell'alta montagna, sognava la città dove viveva suo padre. Adesso pensava alle grandi città di cui leggeva notizie nei libri di scuola ed in una di esse, ed in tutte, vedeva sua madre. L'immagine fisica di lei si scoloriva sempre più nella sua memoria come una vecchia fotografia, ma egli se la figurava sempre vestita in costume, scalza, svelta e triste. Un fatto accaduto qualche anno appresso sconvolse però le sue fantasticherie. Fu il ritorno della madre di Bustianeddu. In quel tempo Anania frequentava il ginnasio ed era segretamente innamorato di Margherita Carboni. Si credeva quindi già una persona seria e finse di non interessarsi al fatto che commuoveva tutti i suoi vicini di casa, mentre invece vi pensava giorno e notte, oppresso da un cumulo di impressioni dolorose. Egli non vide presto la donna, nascosta in casa di una sua parente, ma giorno per giorno riceveva le confidenze di Bustianeddu, che era diventato un giovinetto serio ed astuto. Siccome zio Pera perdeva le forze, si era associato il mugnaio nella coltivazione delle fave e dei cardi. Anania aveva quindi libero ingresso nell'orto e amava studiare seduto sull'erba del ciglione, nella corta ombra dei fichi d'India, davanti al selvaggio panorama dei monti e della vallata. Qui Bustianeddu veniva a trovarlo e a confidargli i suoi pensieri. «È tornata!» diceva, steso a pancia a terra sull'erba, muovendo le gambe in aria. Era meglio che non tornasse. Mio padre voleva ammazzarla, ma poi si è calmato. Oh, l'hai veduta? Sicuro che l'ho veduta. Mio padre non vuole che io vada da lei, ma io ci vado ugualmente. È grassa, vestita da signora. Io non l'ho riconosciuta, diavolo. Tu non l'hai riconosciuta? Esclamava Nania, palpitando, meravigliandosi di Bustianeddu e pensando a sua madre. Ah, egli l'avrebbe riconosciuta subito. Ma poi diceva a se stesso: anche lei sarà vestita da signora, pettinata alla moda. Dio, Dio, come sarà? In tutti i modi la riconoscerei, oh, ne sono certo, pensava poi, confidando nel suo istinto. Perché è tornata tua madre? Chiese un giorno a Bustianeddu. Perché? Oh bella, perché questo è il suo paese. Essa cuciva a macchina in una sartoria di Torino, era stanca ed è tornata. Un grave silenzio seguì a queste parole. I due ragazzi sapevano che la storia della sartoria era una menzogna, ma l'accettavano incondizionatamente. Anzi, dopo un momento, Anania osservò: ed allora tuo padre dovrebbe far la pace. No, disse Bustianeddu, fingendo di dar ragione a suo padre. Ella non aveva bisogno di lavorare per vivere. Oh, che tuo padre non lavora? È vergogna lavorare? Mio padre è un negoziante, corresse l'altro. Che farà ora tua madre? E tu con chi andrai a stare? Ah, chi lo sa? Di giorno in giorno, però, le notizie diventavano sempre più emozionanti. Se tu sapessi quanta gente viene da mio padre per pregarlo di far la pace con lei. Anche il deputato, sì. Poi venne la nonna. Ieri notte disse a mio padre: Gesù perdonò la Maddalena. Ebbene, figlio mio, pensa che siamo nati per morire. Pensa che al di là noi rechiamo con noi solo le buone azioni. Guarda com'è desolata la tua casa. I topi vi fanno continuamente festa. E tuo padre? Andate via, disse arrabbiandosi. Andate via subito, vergognatevi. Ed ora, disse Bustianeddu il giorno appresso, ora si è immischiata anche zia Tatana. Che sermone ha fatto! Ecco, ha detto a mio padre, figurati di prendere in casa un'amica, prendila! Ella è pentita, si emenderà. Se tu rifiuti, chissà che cosa avverrà di lei. Re Salomone aveva 70 amiche in casa sua ed era l'uomo più savio del mondo. E lui? Ah, duro come la pietra! Anzi, disse che le amiche fecero perdere la testa a Salomone. E infatti, il negoziante non si piegò mai e la donna andò ad abitare dall'altra parte del paese, verso il convento dove erano le scuole. Rivestì il costume, ma un costume un po' falsato, arricchito di nastri e di merletti, e dal quale si riconosceva subito la donna di fama equivoca. Il marito non perdonò ed ella continuò la sua vita. Anania la vide un giorno e poi, sempre mentre si recava al ginnasio, ella abitava una casa nerastra intorno alle cui finestre biancheggiava una striscia di calce che terminava in una croce. Sotto la porta c'erano quattro scalini e spesso la donna, che era alta e bella, sebbene non più giovanissima e molto bruna di viso, stava seduta sugli scalini cucendo o ricamando una camicia paesana. In estate rimaneva a testa nuda, coi capelli nerissimi rialzati un po' a ciuffo sulla breve fronte e teneva un fazzolettino di seta grigia intorno al lungo collo. Anania arrossiva, ogni volta che la vedeva provava una morbosa simpatia per lei e nello stesso tempo gli pareva di odiarla. Avrebbe voluto cambiare strada per non vederla, ma una forza occulta e maligna lo attirava sempre in quella via. 6. Erano le vacanze pasquali. Un giorno, mentre Anania studiava la grammatica greca, passeggiando in un piccolo viale solcato tra il verde cinereo di una distesa di cardi, udì picchiare al cancello. Nell'orto c'era anche il mugnaio che zappava canticchiando una poesia amorosa del poeta Luca Cubeddu. Nanna estirpava male erbe, aiutata da zio Pera, ed Efescau, naturalmente ubriaco, stava coricato sull'erba. Faceva quasi caldo, nuvolette rosee correvano sul cielo latteo, perdendosi dietro i ceruli picchi dei monti d'Oliena. Dalla vallata salivano quasi da un'immensa conchiglia colma di verde, profumi e suoni sfumati nell'aria calda. Ogni tanto Nanna si sollevava con una mano sulla schiena, con l'altra gettando baci allo studente. Anima mia, diceva con tenerezza, Dio ti benedica, eccolo là che studia come un piccolo canonico. Chissà cosa diventerà, diventerà giudice istruttore. Tutte le ragazze della città lo vorranno raccogliere come un confetto. Ah, la mia povera schiena! Lavora, rispondeva zio Pera, che una palla ti trapassi il fegato, lavora e lascia tranquillo il ragazzo. Che voi siate pelato! Se fossi stata una ragazzetta di 13 anni non mi avreste parlato così. Ella insinuava malignamente, curvandosi, poi tornava a sollevarsi e ad inviar baci ad Anania, che non se ne accorgeva affatto. Che è? Gridò il mugnaio, udendo picchiare al cancello. Anania ed Efes sollevarono il viso, l'uno dal libro, l'altro dall'erba, quasi con la stessa espressione di attesa angosciosa. Che fosse il signor Carboni? Sì, Anania e l'ubriacone provavano quasi la stessa soggezione vergognosa quando il signor Carboni li sorprendeva nell'orto. Efes Caus sentiva tutto il peso della sua abiezione quando l'uomo benefico, con uno sguardo dolce e triste, senza rivolgergli, unico fra tanti, inutili parole di rimprovero, lo salutava e si intratteneva con lui. Anania ricordava sua madre e sentiva vergogna di se stesso che osava pensare a Margherita. Eppure entrambi, lo studente e il vizioso, dopo aver veduto la figura bonaria dell'uomo retto, provavano una gioia timida e grata. Picchiarono ancora. «Ebbene, chi è?» gridò il mugnaio smettendo di cantare e di zappare. «Vado io!» disse Anania, mettendosi a correre e agitando il libro in aria mentre zio Pera diceva: Se è il padrone, bisogna che Efe si alzi e finga di lavorare. È una vergogna che lo si trovi sempre lì buttato per terra come un cane morto. Nanna emise una specie di grugnito, raccogliendosi fra le gambe rosse seminude le sottane lacere. Zio Pera gridò, rivolto all'ubriaco: Ehi dunque, palandrone, alzati e fingi di aiutarci. Efes fece atto di sollevarsi, ma subito Nanna si ribellò. E io me ne vado. Perché deve egli fingere di lavorare? Perché lo insultate, zio Pera Sagatu, che voi siate pelato? Non sapete che egli era ricco? E che anche così com'è vale sempre più di voi? Ah, tu lo difendi, corvo con corvo non si cava gli occhi, sogghignò il vecchio, alludendo al vizio della donna. Ma la contesa fu tosto troncata dal ritorno di Anania. Lo seguiva un giovinetto in costume di fondi, magro e pallido e con un visetto da topo. «Conoscete costui?» chiese lo studente rivolgendosi al padre. «Neppure io l'ho riconosciuto». «Chi sei?» chiese il mugnaio pulendosi le mani con un ciuffo d'erba. Il giovinetto rise timidamente e guardò Anania. «Zuanne Atonzu!» gridò lo studente. «Guardate come si è fatto grande!» «Salute!» Noi siamo parenti, esclamò il mugnaio abbracciando il fonnese. Che tu sii il benvenuto. Come sta tua madre? Bene. Perché sei venuto? Sono testimonio in una causa in tribunale. E dove hai lasciato il cavallo? Nella locanda? Non ricordavi che noi siamo parenti? E che dunque, perché siamo poveri, non vuoi ospitare da noi? Siccome io sono ricco, osservò sorridendo il giovinetto. Ebbene, andiamo e conduciamo il cavallo a casa nostra. Disse Anania cacciandosi il libro in tasca. Uscirono assieme, Anania puerilmente felice di rivedere l'umile pastorello in rozzo costume che gli ricordava tutto un mondo lontano e selvaggio. Zuanne, vinto da una grande timidezza davanti al bel signorino pallido e fresco dalla cravatta fiammeggiante sul colletto lucido. Mamma, dateci il caffè! Gridò Anania dalla strada. Poi introdusse l'ospite nella sua cameretta e cominciò come un bimbo a fargli vedere le sue cose. Mobili strani riempivano la camera lunga e stretta dal soffitto di canne, coperte di calce e il pavimento di terra. Due arche di legno, rassomiglianti agli antichi cofani veneziani, sulle quali un primitivo artista aveva scolpito grifi ed aquile, cinghiali e fiori fantastici. Un cassettone piramidale, canestri appesi alla parete accanto a quadretti con la cornice di sughero, in un angolo un'olla per olio, nell'altro il lettino di Anania, coperto da una stoffa di lana grigia filata da zia Tatana. E fra il lettino e la finestruola, che guardava sul sambuco del cortile, un tavolino con un tappeto di percale verde ed una scansia di legno bianco nei cui angoli la fantasia artistica di Maestro Pane aveva traforato, forse a imitazione delle arche, foglie e fiori antidiluviani. Sul tavolino e nella scansia stavano pochi libri e molti quaderni, tutti quaderni scritti da Anania, parecchie scatole legate misteriosamente, calendari e pacchetti di giornali sardi. Tutto era pulito e ordinato e dalla finestra penetravano onde d'aria profumata. Sul pavimento bruno, qua e là, screpolato, volteggiavano quasi inseguendosi e scherzando due foglie di sambuco. Sul tavolino stava aperto un volume dei Miserabili. Quante cose Anania avrebbe potuto e voluto far vedere al giovinetto straniero, come ad un fratello lungamente atteso. Ma mentre egli apriva e richiudeva qualcuna di quelle scatole legate misteriosamente, Zuanne taceva e il suo contegno gelido spense la gioia puerile di Anania. Ah, a che serviva? Perché aveva egli introdotto quel mandriano nella cameretta ove, assieme con la fragranza del miele, delle frutte e dei mazzi di spigo che zia Tatana conservava entro le arche, si spandeva il profumo dei suoi sogni solitari? In quella cameretta, dalla cui finestruola sul sambuco, sui tetti erbosi delle casette di pietra, il mondo s'apriva per lui, vergine e fiorito come i monti granitici del vicino orizzonte. Dopo la gioia, provò un impeto di tristezza. Gli sembrò che il villaggio natio, il passato, i primi anni della sua vita, i ricordi nostalgici, l'affetto poetico per il fratellino di adozione, tutto fosse stato un sogno. Andiamo, disse quasi con dispetto, e trasse il pastorello per le vie di Nuoro, scansando i compagni di scuola, pauroso che lo fermassero e gli chiedessero chi era il paesano che gli camminava goffamente accanto. Ma passando davanti alla casa del signor Carboni, videro affacciarsi al portone un viso grassotto, colorito e quasi illuminato dal riflesso di una fiammante camicetta rossa. Anania si tolse rapidamente il cappello, mentre pareva che il riflesso della camicetta illuminasse anche il suo viso. Margherita gli sorrise, e mai guance tonde di signorina furono segnate da più irresistibili fossette. «Chi è quella donna?» chiese rozzamente Zuanne, appena oltrepassata la casa. Donna, è una ragazza della mia età, osservò un po' bruscamente Anania. Ha solo 9 mesi più di me. Al che Zuanne fu colto da grande imbarazzo e non osò più fiatare, mentre Anania, come se la volontà non gli bastasse per tener ferma la lingua, mentiva, pur sapendo di mentire, ma provando una struggente felicità al pensare che ciò che diceva potesse essere vero. Quella è la mia innamorata, disse.